cose di che la gente più non sa, uscire dai problemi che sono di più. E tu, una buona notizia per te, non un sogno ma realtà. Sì, se ti senti un po' così non ti scoraggiare più, questo tutto che viene alla felicità non sarà più un'utopia, perché c'è chi porta via tutto quello che non intorno a te, amore che non c'è, la gelida apatia, lo sguardo vile ormai, ti caccia dalla via per noi.